Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. 12ª puntata. Venne la sera della festa senza che i pescatori fossero tornati. Come ogni anno, vi fu la processione e la fiaccolata sulla piazza della cattedrale, dove appeso a un finestrone del palazzo di città pendeva un grande stendardo, su cui in altri tempi stava Maria d'Enghien, in lana e seta, seduta su un trono con un cuscino di raso sotto i piedi. Più tardi stette il duca del Balzo Orsini, pure in lana e seta su fondo verde, il quale, dopo la venuta degli spagnoli, ebbe la stessa sorte di Maria d'Enghien, sostituito dal re Ferrante d'Aragona. In verità, il duca andò e venne per qualche festa durante le lotte dei baroni, ma alla fine dovette lasciare il posto al re Ferrante d'Aragona che, ricamato con fili d'argento, faceva un bel effetto e dava un tocco di solenne alla facciata del palazzo cittadino. Per la festa dell'Assunta, come per quella dei Santi Medici, i signori tenevano in serbo un'idea speciale, che cioè gli uomini fossero tutti uguali, e l'idea andava in uso per la durata intera della festa. Si vedevano allora in piazza le dame coi vestiti di broccatello prendere il cero dalle popolane e mescolarsi a loro sul passeggio dalla cattedrale al porto, donde si assisteva allo scoppio dei fuochi colorati. Non più valletti coi pugnali alla cintola che sbarrassero il passaggio e obbligassero noi del popolo a prendere vie traverse o a scendere un gradino ed entrare nelle vendite per lasciare via libera. Pareva anzi che le dame e i cavalieri ci prendessero gusto a stare in mezzo a noi e questo li rendesse di ottimo umore. Dalla cucina uscii in cortile a guardare il cielo notturno che era limpidissimo, come sempre durante la tramontana. Da lontano giungeva il brusio della festa che cresceva e calava a seconda del vento, mentre la nostra strada era silenziosissima. Tutti erano andati in piazza. «Va subito a letto», aveva detto mia sorella nel salutarmi. «Ora vado», avevo risposto, ma poi ero uscita in cortile. Non avevo voglia di coricarmi. Il rumore lontano della festa mi metteva nell'animo un desiderio confuso di cose che non c'erano nel mondo dei pescatori. Mi sedetti sul muro della cisterna nel mezzo del cortile. Fatto l'occhio al buio, vidi sul lastricato il disegno delle pietre rettangolari, una grande ragnatela di pietra senza interruzione fino al muro di cinta del cortile da una parte e al muro della casa dall'altra, due muri bianchi di calce che si levavano illuminati dalla luna. Mentre fissavo il disegno del lastricato, le righe cominciarono a ondeggiare, le pietre a muoversi e mi pareva, continuando a fissarle, che andassero in su e in giù e pur muovendosi fossero sempre allo stesso posto. Il muro della casa, bianco di calce, raccoglieva il bianco della luna. Solo la finestrella della cucina segnava una macchia d'ombra regolare, salvo nel lato inferiore, dove i vasi di geranio e di basilico toglievano nettezza al confine tra il nero e il bianco. Mentre immobile guardavo dritto davanti a me, sentii l'umido della notte calarmi sulle spalle. Col passare del tempo, un triangolo di cortile entrò nell'ombra, si ingrandì, si fece nero, affondò mentre la finestrella si allungava per il gioco della luce e dell'ombra. La parte del cortile rimasta sotto il raggio della luna divenne una cosa unica, separata da una curva d'ombra, ritagliata da tutto il resto della notte. Le foglie del geranio e del basilico cominciarono a ondeggiare al vento e sul muro bianco, pochi centimetri a destra della finestrella, segnarono un disegno di ombre tremolanti. Continuavo a sedere immobile allo stesso posto sul muretto della cisterna. Vedevo la luce andare indietro nel cortile e l'ombra farsi avanti. Andavano fianco a fianco, passandosi le pietre dall'una all'altra con moto silenzioso e regolare. Stavo pensando di andare a letto quando udii un passo sulla strada che si accostava. «Fosse Antonio», dissi fra me. Ormai il passo era vicinissimo alla porta della mia casa. «È tornato», pensai d'un tratto, «è arrivato per portarmi alla festa». Scattai in piedi e corsi in cucina. Stavo ritta in mezzo alla stanza in attesa. Il passo si fermò e udii bussare alla porta. Mi precipitai a togliere il catenaccio. La porta socchiusa si aprì e comparve un uomo avvolto fino agli occhi nel mantello. Mandai un grido. «Non vi spaventate», disse una voce nota. La stanza era illuminata attraverso la finestrella dal riflesso vivo della luna, sicché appena l'uomo tolse il cappuccio, fui sicura che era lui. Non so quanti minuti passarono in cui stemmo così di fronte, senza parole, finché io mi precipitai ad accendere la lucerna. Quando mi volsi a guardarlo, l'ufficiale aveva buttato il mantello su una sedia e mi veniva incontro. Ancora non dicemmo una parola. Lui prese la mia mano e si mise a baciarla sul dorso e sul palmo. Strappai la mano, volevo gridare, cacciarlo via, chiamare aiuto, ma non feci niente di tutto questo, non mi uscì una parola. «Sapevo che eravate sola», disse. Finalmente riuscii a parlare. «Andatevene», balbettai. «È triste essere soli in una sera di festa», rispose facendo un giro per la stanza, accompagnato dal fruscio dei panni di seta guarniti di pizzi. Io ripetei: «Andatevene, non mi metto a gridare!» «Non vi sentirebbe nessuno, sono tutti alla festa. E poi perché gridare? Sedetevi qui, parliamo un poco.» «Io non mi siedo», risposi, e presi a camminare indietro per allontanarmi da lui finché le mie spalle toccarono il muro della stanza. «Siete bella, ma pungete come un fico d'India», sorrise. Da capo andò su e giù per la stanza, muovendosi a suo agio come se tutte le sere di sua vita fosse venuto a casa mia. Infine si sedette sull'angolo del tavolo con una gamba che dondolava al ritmo nel vuoto. «Ma perché volete stare in quell'angolo? Su, venite qui e sedetevi.» Io non mi mossi. Disse: «Vi piace la festa, ma non c'è il marito e non potete andarci. Magari avete pregato qualcuno, è così? Che vi accompagnasse, ma vi hanno chiusa in casa in castigo, è così?» Adesso rideva parlando, lo guardavo esterrefatta. «Io non voglio che voi restiate qui», mormorai. «Vi prego, lasciatemi sola.» Lui invece rispose: «Siete la donna più bella che io abbia mai visto a Otranto.» Lo disse con tanta dolcezza di voce che fu una cosa veramente straordinaria. «Andiamo», soggiunse. «Venite qui. Non avrete per caso paura?» Mi mossi accostandomi al tavolo. «Non so nemmeno il vostro nome. Come vi chiamate?» «Idrusa.» «Bene. Io mi chiamo Manuel.» Poi disse: «Prima che l'olio di questa lampada si consumi, Idrusa, tu e io saremo già chissà dove. Mi aveva dato del tu. Dovevo correre in strada e chiamare qualcuno. Sarei riuscita a scappargli via, magari uscendo dal cortile. Restai lì, ferma, come in quel giorno ormai lontano in cui lo avevo incontrato nella piazza della cattedrale.» «Senti», disse tendendo l'orecchio, «cominciano a sparare i fuochi.» Io abbassai la testa, il cuore mi batteva. «Stanotte c'è tanta luce nelle vie», disse, «che nessuno porta lucerne a mano, ci si vede benissimo.» Poi disse piano, con voce insistente: «Vieni qui, non c'è ragione di aver paura.» Ma io non mi mossi, fu lui ad accostarsi a me. «Che sciocchezze stai pensando», disse. «Quando ti vidi la prima volta, ero appena arrivato a Otranto con il seguito di Don Felice. Ma tu non eri con tuo marito nella barca, con chi eri?» «Con Colangelo», risposi, «e sua moglie.» «Mi guardava brutto quel Colangelo», lui disse ridendo, «come se gli fossi antipatico. Tutti i pescatori ci guardano così, perché?» «Qua non piacciono i forestieri», risposi. Andammo avanti ancora un poco a parlare. Lui faceva domande e io rispondevo, ma subito dimenticavo che cosa avesse domandato. A un tratto, a mezzo palmo dalla mia faccia, vidi due occhi che mi giravano sulla fronte, sulla bocca, sul collo. Allora, con una mossa precisa della mano, lui rovesciò il lume, che subito si spense, e nel buio, sceso a tradimento, mi strinse con violenza fra le braccia, cercò la mia bocca. Poi, con una mano lenta e sicura, prese a slacciarmi il corpetto. La mia felicità fu così grande quella notte che per tutta la vita aspettai qualcosa che le somigliasse, ma felici si è solo per qualche attimo e in un modo del tutto imprevisto. Ci separammo all'alba. Lui aprì lentamente la porta, guardò a destra e a sinistra il cielo, disse: «Si è fatto chiaro». Era fresca l'estate quell'anno e quando lui se ne fu andato io tornai nel cortile a sedermi sul muretto. La tramontana aveva lasciato il posto a un'aria tranquilla e sostenuta, assai rara d'estate. Pensai: «Il mare adesso si calma, le barche torneranno dalla pesca grande, Antonio tornerà». Le cornacchie già volavano gracchiando per il cielo e si sentiva il rumore di qualche carrucola di cisterna, di qualche secchio che batteva sulla superficie dell'acqua. «Antonio vorrà fare l'amore», pensai. Si udirono i primi passi delle donne che portavano a vendere le uova, poi i passi delle donne che tornavano dal mercato con le sporte piene di cicoria. Quando mi affacciai alla strada era già tardi. Il sole batteva sul lastricato dove rotolavano nudi i piccini. Le femminucce invece di 4 o 5 anni parlottavano sedute in terra, tutte in fila con le spalle al muro della casa di Mastro Natale. Rapidamente passarono le ore e verso il meriggio cominciai ad aver paura. Un freddo nelle ossa si accompagnò all'idea che Antonio stava per arrivare. «Gli dirò tutto», pensai. «Mi picchierà, mi ammazzerà». Non lavoravo, non facevo nulla. Giravo per casa e ogni tanto mi sedevo. La sera non ebbi più paura. Quando mi coricai provavo solo una grande malinconia. Mi ricordavo della felicità che avevo avuto la notte prima e sapevo che essa mi sarebbe venuta in mente tutte le volte che nella vita avessi sentito parlare di felicità. L'indomani un grande vociare delle donne nella strada annunziò l'arrivo dei pescatori. «Presto!» disse Filomena affacciandosi alla mia cucina. «Vieni, si va al porto!» «Sono arrivati!» chiesi spaventata. «Stanno per arrivare!» Mi unì alla folla delle donne che correvano al porto. Le barche venivano avanti lentamente a gruppi di 4 e lasciavano sull'acqua l'impronta confondendo il moto regolare delle onde. Pochi metri separavano un gruppo da un altro e di mano in mano che diminuiva la distanza qualche donna dava la voce al suo uomo. Quando le prime barche toccarono il suolo le ultime giravano la punta della rocamatura mentre sul mare piatto e verdognolo i remi battevano a ritmo. Ma i pescatori non vociavano come al solito, non levavano le braccia a salutare, non si chiamavano da una barca all'altra. Erano le donne invece a parlare, piene di curiosità. «Che c'è? Pare la processione. Ma che hanno? È andata male la pesca? Ma che male, guarda quanto pesce! Saranno stanchi, c'è sempre stato mare grosso. Io dico sì, ma guarda che facce! Scendiamo fino alle barche, sì, scendiamo!» Camminavo sopra pensiero, e quando cercai con gli occhi la barca di Antonio mi fece meraviglia che non fosse fra le prime come sempre. Le donne piombarono in chiacchiere, in strilli e smaniavano nel salutare i primi pescatori arrivati a terra. Tutto a un tratto il baccano cessò. Io non ne afferravo la ragione perché me n'ero andata lontano con il pensiero e non sapevo che cosa stesse succedendo. Vidi i primi pescatori scesi sul molo. Stavano fermi senza far nulla, come fossero la domenica sulla piazza dopo la messa grande, senza neanche guardare le barche che pure erano cariche di triglie, di lucci, di dentati, persino di aragoste. Mastro Natale, che era a capo di tutte le barche, non dava ordine ai pescatori di cominciare lo scarico, ma anche lui stava lì, guardando verso di noi, e non faceva nulla, scordatosi dell'autorità. «Natale!» lo chiamò la moglie mentre tutte lo circondavamo. «Salute!» disse con voce roca. «Che c'è?» chiese la moglie. «Mare grosso, una iettatura. Si capiva anche da qua», io dissi. «C'era sempre bufera di vento». Mastro Natale fissò lontano la cattedrale con occhi di dolore e fissò persino me per un attimo senza parlare. «A Mastro Natale è successo qualcosa», io pensai. Allora disse: «Ieri l'altro al vespro il mare si è fatto viola e le onde arrivavano alla Torre Saracena. Verso Castro lampeggiava e 2 venti contrari impedivano alle barche di andare. Ci raccogliemmo tutti dietro la palascia». Si interruppe, passò il fazzoletto sulla fronte ad asciugare il sudore, riprese: «Era un vespro d'inferno, non poteva una barca da sola arrivare a Otranto, non poteva, bisognava stare lì e aspettare». Ascoltavamo zitte. «Un uomo solo è debole in mare, Egli disse, fissando ancora me, non può vincere coi remi la forza della tramontana, non può fare quello che vuole. In quella vidi le donne stringere il cerchio e guardarmi con rispetto, come se fossi stata il governatore. Così si fece ancora silenzio. Solo io a un tratto gridai: ma che c'è? Cos'è successo? Mastro Natale volse gli occhi a me, dubitò un momento, disse: Antonio non volle aspettare con noi dietro la palascia. Diceva che ti aveva promesso di arrivare per la sera della festa e portarti alle luminarie. Diceva che non era possibile che lui stesse lì con noi. Cercai con tutte le mie forze di raccogliere le idee che se ne fuggivano dalla testa. Io non volevo lasciarlo andare, lui proseguì, perché non era mare da venire a Otranto, nemmeno per un pescatore come Antonio. Il mare ha le sue leggi, dicevo, e ci va fino in fondo, ma lui rispondeva: io non posso aspettare qui, tu lo sai che non posso aspettare, e ci lasciò. Lo vedemmo mentre girava la punta della palascia, poi non lo vedemmo più perché le rocce ce lo nascondevano. Andate avanti, dissi secca, come se dessi un ordine a Mastro Natale. Lui abbassò gli occhi. Abbiamo trovato il corpo stamane al largo della Torre del Serpe, impigliato nelle alghe. La barca è affondata. Morsi l'aria senza riuscire a dire una parola. C'era un grande vuoto da cui veniva fuori la faccia di Mastro Natale che mi guardava. Non era mare da venire a Otranto, egli ripeté. La sua voce rimase sospesa e io non stavo allo sforzo di sentirla. Buttai anche quelle parole nel vuoto. Ero senza pensieri, senza corpo. Il vuoto si allargava sempre più e io aspettavo qualche cosa, una risposta che non veniva. E fui presa dal terrore di essere ancora al mondo. Poi mi trovai a casa. Lasciatemelo vedere, continuavo a implorare, benché nessuno mi accontentasse. Lui era nella camera mortuaria del cimitero, avvolto in un manto, ma io non lo vidi e per questo fatto non ero persuasa che fosse morto. Bisogna vederli morti. Io continuavo a vedere nella mente gli altri ritorni dalla pesca grande, quando gli uomini scendevano fieri a terra dalle barche, cariche di pesci luccicanti, e cominciavano a raccontare. Antonio no. Antonio correva subito a casa e si chiudeva dentro da solo. Non voleva che lo vedessi se non quando s'era pulito, lisciati i capelli, cambiato il farsetto e le brache. Nel riaprire la porta, subito voleva fare l'amore. Nessuno, ora che lui era morto, sapeva queste cose fuori di me. E se io le avessi dimenticate, sarebbe stato come se non fossero mai avvenute, come se Antonio nemmeno fosse stato al mondo. Le donne, nere dalla testa ai piedi, col velo nero in capo, sedute lungo i muri della mia cucina, recitavano la sorte dei morti, guidate da Filomena. Dicevano: un vento refolo era venuto dalla marina, era entrato nella mia casa e aveva fatto una rovina. Fosse andato a una chiusura, ne avesse fatto una pianura. Ora a casa lui non poteva tornare, né di Pasqua né di Natale, manco nei giorni di Carnevale. E di Pasqua potesse piovere e di Natale fare triste tempo. Ma io non scoppiavo in singhiozzi e in strilli come le donne, e loro mi guardavano con meraviglia. Nemmeno pregavo. Pensavo solo: se tutto in una volta io adesso morissi, se io potessi tutto in una volta morire, sarebbe finito. Balzai in piedi, senza più stare lì seduta e ferma a sentirle, e mi precipitai verso il cortile, ma le donne mi afferrarono, mi fecero sedere a forza e continuarono a recitare il reputo. Oh galea, mia galea, con i remi inargentati, in cielo cantano gli angeli, dentro la chiesa i sacerdoti. A questo punto gridarono tutte insieme, alzando le braccia e sventolando i fazzoletti nell'aria. Poi il reputo finì e rimasero sedute immobili, tranquille. Adesso la notte passata con Manuel aveva perso tutta la magia e ogni cosa si presentava diversa. Se solo guardavo il tavolo dove Manuel sarà seduto, se guardavo il letto, ero perduta. Volevo a tutti i costi uscire in cortile. «Bevi una goccia di latte», disse mia sorella. «Non puoi restare sempre digiuna». Quando venne l'ora della sepoltura fuori città, presso il convento di San Francesco, un frate fece il discorso davanti alla fossa. Disse che il solo rimedio alla disgrazia stava nel pensare alla bontà di nostro Signore Benedetto, che si era portata in cielo la bella anima di Antonio per tenerla presso di sé, per darle la felicità del paradiso, laddove la terra era solamente una valle di lacrime. Finito il discorso, mentre le donne cominciavano a cantare in coro, io presi per un braccio Mastro Natale. «Venite con me, vi devo parlare». «Sta tranquilla», lui disse senza muoversi. «No, vi devo parlare. Ora, figlia mia, qua nel cimitero». «Sì, qua nel cimitero. È qua che devo dirvelo». Lo trascinai a forza in un angolo, lontano dagli altri. «Se Antonio tornava, lo avrei detto a lui, e ora lo devo dire a voi». Mastro Natale aspettò in silenzio, guardandomi sorpreso. «Io ho fatto offesa ad Antonio», dissi. «Cosa hai detto?» «Sì, la notte della festa, mentre lui moriva, io l'ho passata con l'ufficiale spagnolo». Lui corrugò la fronte, tacque un momento, disse: «Tu stai farneticando, figlia mia, è il dolore». «No, è la verità», risposi. Eravamo in piedi, l'uno di rimpetto all'altro fra le tombe, mentre le donne cantavano le litanie dei morti. A un tratto Mastro Natale mi strinse le braccia con le sue mani robuste. «Tu stai farneticando. Non è successo niente, hai capito? Niente, poi niente». Per un attimo sentii solo il respiro affannoso del vecchio che continuava a guardarmi negli occhi, che voleva farmi entrare la sua idea in testa. «Non è vero», dissi bruscamente. «Voi mi dovete credere, mi dovete disprezzare». Mastro Natale respirava come se non ci fosse più aria intorno. «Sta zitta, idrusa. Antonio se n'è andato e tu non sai quant'era buono. Non sai quello che hai perso». Finalmente io scoppiai a piangere, per la prima volta dopo la notizia, e la forza delle lacrime fu tale che mi portò via da tutto. Mastro Natale si passò il fazzoletto sulla fronte. Dopo qualche momento disse: «Andiamo a pregare con gli altri». Gli uomini avevano finito di riempire la fossa e tutti guardavano in silenzio la terra fresca. Passarono così alcuni minuti. «Vieni, andiamo via», disse Mastro Natale. Io sapevo di guardare della terra, solo della terra fresca, ma non mi riusciva di muovermi, perché muovermi voleva dire ricominciare a fare qualche cosa. Ma che cosa? Sulla porta di casa Mastro Natale mi disse: «Sali qualche giorno al convento di San Nicola di Casole e cerca di padre Epifani. Hai inteso?» Detto questo, mi strinse la mano e se ne andò. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.